stiamo registrando in questo momento. Sta per arrivare la quinta puntata di Ginnastica per Sale d'Attesa. Non so se ve l'aspettavate. Sicuramente è uno dei più, dei meno attesi fra i programmi radiofonici dell'emisfero boreale. Questo è la, diciamo, quello che esce da una ricerca recente fatta da alcuni ricercatori di Yale. Quindi quinta puntata con un super ospite che è il dottor Pulsar. Hey, yo! Bella a tutti e tutte, tutto quanto. Molto bello, sono molto contenta di avere Pulsi qui al microfono. Nel frattempo fa il suo sound check. Check. Prova, 1-3, 1-2, è così che va, ok? Esatto. Pulsar, il dottor Pulsar è già noto come MC Pulsar, ma anche come dottor Pulsar. A partire da questo momento al grande pubblico di Ginnastica per Sale d'Attesa. Quindi oggi si saltella con grazia sulla casella azzurra, ma prima forse mandiamo la sigla. Il Pic Razi alla regia ci fornisce una sigla. Sempre bello. Grazie come al solito ai Fugazzi che ci omaggiano con la loro waiting room, e a questo punto praticamente passiamo effettivamente nel pratico, nel senso che sono qua col dottor Pulsar, come ricordavo, e quest'ultimo oggi ci racconta una cosa che, allora, mettiamola così, noi siamo atterrati sulla casella azzurra, quindi geografia, potevamo parlare di non so, del Monte Everest, ma invece noi abbiamo deciso di, come dire, prendere la geografia dal senso più deep e più, come dire, profondo, e quindi abbiamo deciso di rivolgerci al buon Pulsar, il quale ha fatto una tesi su un argomento molto interessante, in realtà è una tesi super strutturata e mega trasversale che noi ovviamente oggi non ripercorreremo appieno, ma tutto questo per dire che in realtà tutto ciò che ho letto l'ha scritto lui, la musica la porta lui, insomma io non faccio una mazza, mi metto qua in un angolo. No, non è vero, cercherò di contribuire anche perché effettivamente le cose che racconta sono molto interessanti e quindi spero che, come dire, nel corso della puntata riusciremo a raccontare un po' di quello che Pulsar ci spiega. E, come dire, il tema, uno dei temi attraversati da questo testo è quello della memoria, no? E di come questa plasma, insomma, un po' le comunità fondamentalmente. E penso, correggimi Pulsar se sbaglio, che in una qualche maniera questa sia una tematica che oggi in generale nel Novecento o nel 2000 che dir si voglia, ma anche un po' in generale sia sempre un argomento comunque molto di attualità. Come dire, la memoria, che è una roba potenzialmente indietro, invece è un argomento di grande attualità. Assolutamente, sì. Quindi fondamentalmente quello che, diciamo, quello che fornisce la memoria, adesso ti chiederemo di raccontare un pochino, come dire, alcuni primi aspetti riguardanti la memoria e i quadri all'interno, diciamo, i quadri concettuali all'interno della quale si muove, come dire, è il ruolo è un po' quello, poi lo vedremo, di fornire una narrazione, quindi uno strumento comune per leggere un po' tutto ciò che li riguarda. La fenomenologia dei gruppi umani, ebbene sì. Capito, allora, capito come. Dunque, sì, vabbè, ok, bella Lore, bella Chiara, bella a tutti quanti, tutte quante, qua è Pulsar Uranio, Rap Caverna Posse, mi sembrava doveroso ricordarlo, bella lì, io sono esatto. Anche Jacopo. E dunque, beh, sicuramente vorrei, diciamo, dire un po' com'è nata quest'idea per questa tesi. Allora, io vengo da una triennale in geografia, che è una triennale senza futuro, non c'è la magistrale, quindi ho dovuto inventarmi qualcos'altro, e dopo sono finito a storia, che tra l'altro è anche acerrima nemica della memoria, ok? Acerrima nemica no, però insomma c'è un dibattito in corso tra queste cose. Or dunque, la geografia è comunque una disciplina molto trasversale, ecco, per il tipo di tematiche che si ritrova ad affrontare, e mi sembrava anche la memoria un tema molto molto vasto, vario, che si può affrontare da vari punti di vista, dove ci sono molti possibili punti di incontro tra discipline diverse. Infatti comunque la mia tesi parte dal costrutto teorico di un sociologo di primo Novecento, Maurice Albwachs, che dir si voglia. Maurizione, per gli amici, tra cui Pulsar, ovviamente. E per finire poi tra antropologi, psicologi, ma diciamo subito che noi non arriveremo così lontano. Sicuramente volevo introdurre un attimo questa teoria della memoria collettiva che Albwachs sviluppò nel primo Novecento, senza andare troppo nei dettagli perché ci sta. Il signor Albwachs è un discepolo di Durkheim, uno dei più grandi sociologi di fine 800, inizio 900, che aveva costruito il concetto di coscienza collettiva, che secondo lui era una specie di bacino all'interno del quale, per dirla con termini poco accademici tra l'altro, all'interno del quale raccogliere le rappresentazioni condivise delle varie persone che compongono una collettività. Diciamo che Albwachs lavorò meglio questo concetto, soprattutto per rispondere a un altro grande teorico del suo tempo, che era niente meno che Henry Bergson, il quale tuttavia si adoperò soprattutto per un'indagine filosofica sul tempo, ecco. Quindi si trova molto una querelle, diciamo, tra Bergson e Albwachs sul tempo, non tanto una querelle, perché poi storicamente non è che ci fu chissà. Non hanno dibattito. Litigato sui social, diciamo. Non esatto. Si sono dissati. Non si sono dissati, però però c'era appunto questa diversa visione, no? Anzi, diciamo pure che il confronto è stato fruttuoso, in che senso? Andiamo con ordine, tuttavia. Torniamo un attimo alla teoria della memoria collettiva. Alvax sosteneva che i ricordi, quindi diciamo le immagini che si manifestano nelle menti degli individui, non sono tanto delle manifestazioni individuali, casuali, che non provengono da nessuna parte, ma anzi si tratta di flussi che attraversano la società, non casualmente, ma incanalandosi in questi cosiddetti quadri sociali, così come li chiamava Alvax, che altro non sono che dei gruppi di che cosa? Di persone accomunate da un interesse di un certo tipo, una formazione di un certo tipo, insomma, un qualcosa che accomuna. Ci possono essere dei gruppi dei più disparati. Alvax riporta tutta una serie di esempi, per dirne una sui partiti, sulle categorie professionali. Ecco, questi ricordi condivisi sono condivisi appunto all'interno di una collettività. Questo non significa che un individuo può ricordarsi qualcosa che non ha vissuto lui, ma che ha vissuto qualcun altro del suo gruppo. Però significa che in qualche modo questi ricordi possono essere recuperati, ad esempio guardando i segni che sono stati lasciati nel tempo, ad esempio in una città, in un territorio, in un quartiere. Io ad esempio faccio parte di un certo quartiere, vedo nei segni lasciati nel territorio quale può essere stata volevo usare questo termine, esatto, non qua è difficile, è difficilissimo, un campo minato praticamente questa cosa, perché giustamente a livello intuitivo uno pensa di poter usare dei termini, ma giustamente quando vengono scomposti e riproposti e risignificati diventa effettivamente stradifficile. Però fondamentalmente, quindi, il punto è, diciamo, noi comunità di quartiere, noi comunità di può essere anche trasversale, cioè tipo noi comunità di giovani militanti, potenzialmente, quindi certo, non essere certo. Uno potenzialmente può fare parte di più gruppi, no? Assolutamente, okay. Anzi, per forza si fa parte di più gruppi, non è possibile pensare il caso di una persona che faccia parte di un solo gruppo in vita, diciamo, sua. Forse una setta magari è un po' più complesso, ricoincide di così. Però vabbè, insomma, posso diciamo fare degli esempi che fanno capire quanto sia pervasiva l'appartenenza a dei gruppi. Vai. Ad esempio Alvax ha parlato anche di questo, dell'eventualità, o meglio del quesito, ma è possibile vivere al di fuori di un gruppo, cioè essere presi soltanto come individui e interagire col mondo senza avere ricordi dati dai gruppi? No, perché no? Perché secondo lui il massimo grado di astrazione che si può fare è quello di ricollegarsi ad una società molto antica, un gruppo molto antico, che è quello dei niente meno che dei geometri, capito? Ok. Parliamo di un gruppo. Quindi mi viene in mente, tra l'altro, che la simbologia è piuttosto utilizzata anche nella massoneria, non a caso l'antichità. Sì, questo è uno spunto interessante. Sicuramente quello che c'è da dire è che quelli sono i ricordi del gruppo dei geometri, niente meno che le forme geometriche. Io ne faccio parte perché sono in grado di dire che questo schermo di computer davanti a me è rettangolare, o piuttosto che un qualsiasi oggetto abbia una forma cilindrica, conica, triangolare, piramidale. Insomma, soltanto grazie a questo io riesco a rendermi conto che faccio parte del crew dei geometri. Del gruppo dei geometri, ebbene sì, perché è difficile rendersene conto, perché si tratta di oggetti così al di fuori del, diciamo, dei quadri spaziali e temporali in cui si formano i gruppi, dopo ci arriviamo con calma, che è difficile prenderne coscienza prima, ma soltanto per questo fatto noi facciamo parte di quel gruppo così antico, così come mille altri gruppi chiaramente più radicati nel quotidiano, come ad esempio il gruppo scuola, il gruppo lavoro, il gruppo collettivo, il gruppo tennisti anonimi, insomma tante cose diverse. Ogni gruppo, la particolarità di ogni gruppo, come dicevo prima, è che si struttura all'interno di precisi quadri spazio-temporali, spaziali e temporali. Cosa significa? Per quanto riguarda lo spazio altro non, in questa teoria di Alvax, altro non è che una superficie sulla quale vengono proiettate le rappresentazioni del gruppo. Ad esempio, una comunità di un quartiere proietta la rappresentazione di se stesso all'interno di del territorio che abita. Tutte le parti di questo territorio e come questo territorio è ordinato, gli elementi naturali che si oppongono all'ordine artificiale creato dai membri di questo gruppo, entrano tutti a far parte di questa autorappresentazione che serve a a dare un'impressione di durata nel tempo, così che il gruppo si identifica con quel territorio, così da creare un legame tra gruppo e luogo. Ma la verità è che il legame vero è tra il pensiero stesso del gruppo e quella rappresentazione. Ma altrettanto posso chiederti, visto che io ogni tanto metto, ma possono fare parte di più gruppi? Ma possono esserci, no, anche, ci possono anche essere più rappresentazioni di comunità all'interno di uno stesso spazio, cioè la penso così, per esempio un gruppo di persone, una comunità di, anzi una comunità in questo caso che è quella degli studenti di Bicocca, percepiranno e si inseriranno all'interno di quello spazio lì diversamente da per esempio dei residenti di Bicocca a cui diciamo che condividono lo stesso spazio ma che ne hanno una rappresentazione diversa verosimilmente, quindi non so. Assolutamente, proprio per il fatto che si può appartenere a gruppi diversi sia simultaneamente sia in una successione, ad esempio prima faccio parte di un gruppo poi entro a far parte di un altro, ciò che cambia non è altro che una rappresentazione diversa del tempo e dello spazio, infatti dei quadri spaziali e temporali in cui ci si ritrova. Quello che infatti Alvax sottolinea in questa teoria è che il tempo, ad esempio, diversamente dal tempo che aveva teorizzato Bergson, per tornare alla querelle di cui parlavamo prima, non è un concetto matematico indefinito, astratto, nel quale ad esempio vengono studiati i fenomeni fisici che si ripetono sempre uguali a se stessi. All'interno della teoria della memoria collettiva, il tempo è una scansione all'interno del quale i gruppi, o meglio, le persone che fanno parte dei gruppi, possono ripercorrere col pensiero la storia del gruppo, la memoria del gruppo, quindi andare a ripescare dei ricordi, ricordi che si trovano nei punti dove le coscienze si incontrano. Quali sono questi punti? Ad esempio, basti pensare all'antica società politica e religiosa al tempo stesso che si trovava tipo 10 secoli fa, quando la Chiesa di Roma aveva un effettivo potere politico, andando a spanne più o meno, qua il mio ruolo di storico un po' viene meno, diciamo. però Alvax diceva questo: un tempo la società religiosa e quella politica erano un'unica società, quindi la scansione temporale che è stata creata, quindi la divisione dell'anno che per ogni giorno c'erano dei santi, capite? Mm-hmm. Quella scansione è stata ripresa dalla società politica ed è servita in seguito ed è stata ripresa da altri gruppi, sia dai gruppi politici che fondavano gli stati nazione e tutte le formazioni politiche che dir si voglia, ma anche ad esempio i gruppi commerciali che ad esempio facevano le fiere, effettivamente. Facevano le fiere nei giorni festivi, quindi nei giorni di santi precisi. Quindi questi quadri venivano ripresi, plasmati, modificati e sempre in base al bisogno del gruppo che faceva, che si appropriava di questi quadri. Infatti questo è uno dei principi della teoria della memoria collettiva di Alvax. Il ricordo non è una cosa immobile, immota, sempre uguale a se stessa, ma è sempre qualcosa che viene plasmato, modificato a seconda del bisogno del presente. non è un trofeo immobile che resta lì per l'eternità. Ovviamente stiamo parlando di memoria collettiva, non della memoria di un singolo individuo, quindi qualcosa che può modificarsi nel tempo in base al ricambio, ad esempio, della composizione dei membri di un gruppo, al ricambio degli interessi di un gruppo. Si tratta di qualcosa che è sempre in continuo divenire, ecco. Il ricordo è questo per Alvax, qualcosa che è in continuo divenire. Non, Quindi fondamentalmente la logica è, diciamo, che il ricordo si spinge indietro utilizzando delle cose fondamentalmente funzionali al presente, nel senso che alcuni elementi vengono anche eliminati potenzialmente, esatto, e altri vengono mantenuti. Esatto. E quindi si modifica tracciando, diciamo, un percorso, un sentiero all'indietro, fondamentalmente prendendo tutta una serie di elementi e mettendoli lì a disposizione di una collettività che in quanto tale in una qualche maniera ne condivide delle strutture. Quindi fondamentalmente, per esempio, a me viene, non so se c'entra questa cosa, io continuo a dire la cosa a caso, però secondo me, per esempio, se noi pensiamo alla popolazione, adesso giusto per buttarla sul facile, agli Stati Uniti, la storia degli Stati Uniti è anche abbastanza recente tendenzialmente, nel senso che la guerra civile non è di un milione di anni fa, ha con sé una serie di, come dire, conseguenze, e potenzialmente ci sono due popolazioni, due collettività all'interno della popolazione statunitense, anzi due comunità all'interno della società statunitense, che probabilmente hanno di questo evento dei ricordi completamente, diciamo, una memoria collettiva. Adesso sono difficilissimo dire i termini giusti, raga. Mi sento super sotto pressione. No, è una memoria collettiva che racconterà in un caso di quanto prima della guerra civile si stesse bene con i propri schiavi che sistemavano il campo, e verosimilmente una comunità afroamericana che evidentemente ha della cosa una memoria totalmente diversa, quindi dell'età pre-guerra civile completamente diversa, e in una qualche maniera le entità politiche, quindi immagino che si tratti di istituzioni, non so, statali, sovrastatali, barra X, utilizzano e recuperano degli elementi di una o dell'altra memoria in funzione di quello che serve al potere costituito, tipo così, potenzialmente. Sì, poi quando si parla di politica si entra in un discorso, diciamo, molto variegato, nel senso che o non tanto di politica, ma più proprio di società, ecco, perché nella società esistono tanti gruppi diversi a seconda sia delle categorie di appartenenza, mi spiego meglio. Ci sono magari dei gruppi che tra loro sono in contrapposizione e anzi fondano la loro stessa identità sulla contrapposizione tra di loro, come ad esempio delle comunità che sono state in conflitto tra loro, come ad esempio gli stati del sud, gli stati del nord, degli Stati Uniti, e come dire. E così, allo stesso modo, ci sono tantissimi gruppi diversi. Ci sta. Ok. No, e quindi ok. Mi sono un po' okay, persa okay. No, domanda, no, no, no, no, no, no, ci sta. Sono capito. Allora, io in realtà adesso ci interromperei per mettere un pezzo, così, perché mi sembra arrivato il momento, e poi proseguiamo questa conversation, ma non so precisamente che pezzo vogliamo mettere. Tu hai qualche... Guarda, se vuoi sparare qualcosa della selecta di pop latino, che qua alla radio di Zam non lo sento mai di solito. L'abbiamo caricata, ovviamente, l'abbiamo caricata nel giga archivio. Cella. Yeah. out the men's with the Sherlin that Bane had before you test me. You ought to think of your brain pan. Donnie's a gorilla. Al-Qaeda came with the killer's gun on the waiter while I wait for niggas. Plate full of plans. If you want to die, I know the devil. Go ahead and pick the date for the dance. I'm in the I-8, blew an 8 on the iPhone. On a money call, then take the advance. 50-50 split, take mines on the back end. Business going good, take the profit, put it back in. Reaganomics in effect, rooftops with cartels. Honor in the set, my outfit, put you out, kid. Fuck about the plug, cause we the outlet. Yardy homie got a tech, any on that stealth shit. Land homie got the coke, any on that rap shit. You ain't really bout shit. We let the dogs out, man, come on. You ain't really bout shit. Bam, bam, you in the law's house. Man, come on, you ain't really bout shit. Like, damn, this lock shit stick. We ain't playing with you niggas. In the trunk, I got them things that'll spray and hit you niggas. Think something funny? Y'all keep laughing. Nigga already dead. I'ma keep stabbing. Been a loose cannon. Been putting work in. Name ringing bells. It's goose deep to Warburton. Niggas talk about battle, but they ain't battle dog. The rap sheet is longer than niggas' catalog. Fuck you battle for? No, you ain't winning. X been the Grim Reaper since the beginning. These new rappers got me like, what the fuck is you doing? You're all over the place with it. You doing it. If you ain't spitting the truth, then shut the fuck up. Please. Fuck you, suck my dick. Now I'm really about shit. Shit. We let the dogs out. Man, come on, you ain't really about shit. Bam, bam, you in the law's house. Man, come on, you ain't really about shit. You could just say what's up, I could tell it ain't real. Nigga came home from somewhere, I could tell it ain't jail. No music, got 100,000 large in the mail. Shit. Can't tell them all your plans, cause they want you to fail. Nigga hate when you be moving, they rather you still. Keep track of me, watch the back of me. I pop up more than my son's agony. Cut him into pieces, body in the freezers. I don't drink lean, so I'm catching seizures. With the cheese, I'm like Little Caesars. Fuck your debit card and your little visas. Coke game, dope game, niggas been around that. Shot dead, left in your bitch house, you get found that. Trap game, rap game, niggas made hits. LOXD block, get off my dicks. Pretty much all who we are now. We shed light on the city with a dark cloud. We bought Diddy through, even bought the R's out. And a lot with the trucks and the cars out. And we never said once if it wasn't for us. Hindsight, I look back, it just wasn't enough. The fake love got exposed, just wasn't the lust. Find out who's who, you seek others to trust. It was already bars, we was already stars. Couldn't make us more related than we already are. It was written already, meaning it was already God. And we came from the bottom, so it was already hard. Now, I smoke different, I drink different, I think different. My contract is much bigger, so the ink's different. My outlet, not about my outfit. How you feel about shit? You ain't really about shit. Shit. We let the dogs out. Man, come on, you ain't really about shit. Bam, bam, you in the law's house. You ain't really about shit. Why only who we going all out? Man, come on. You ain't really about shit. Find you a shelter, we gon' fall out. Man, come on. You ain't really about shit. Allora, dopo questa traccia sobrietà, che non corrispondeva al pop latino, ma avremo poi modo di mettere quello. E, torniamo a parlare di memoria. E di quadri di memoria, ma in realtà prima, visto che l'abbiamo tirata in ballo in più occasioni e come dire, ma mai facendo un discorso un po' più specifico su, e quindi mi sembra giusto tornarci, abbiamo parlato di memoria collettiva e di memoria storica. Adesso di memoria collettiva, insomma, abbiamo detto un po' di cose. A questo punto, la memoria storica, che, come giustamente vuole questo terreno minato in cui stiamo camminando, non è uguale affatto alla memoria collettiva. Esatto, allora, diciamola così, Alvax la taglia con l'accetta. Per lui memoria storica è un termine che non esiste, sono due termini che devono stare separati tra di loro. Memoria e storia sono due cose differenti. Questo perché? Alvax parte da una distinzione, quello tra memoria autobiografica e memoria storica, appunto, prima di mettere da parte questo termine, prova un attimo a analizzarlo. Diciamo, la memoria autobiografica è quella dei ricordi di una persona, no? Mentre la memoria quindi storica... Quindi sono andata vita... in vacanza, ho giocato la partita tot... Esatto, da bambino okay. Vivevo con i miei genitori, siamo andati a fare questi viaggi insieme, bla bla bla, andavo a casa dei miei nonni, vedevo queste cose, bla bla bla, mi ricordo che c'era un candelabro che mi faceva paura, cose di questo tipo, esatto, insomma. Esatto, ok. Lo stesso Alvax, tra l'altro, faceva l'esempio dei nonni. Invece la memoria storica è un, diciamo, un corpus di date, di nomi, di eventi un po' più, diciamo, astratti, presi freddamente su un passato più lontano, laddove la memoria autobiografica cessa di esistere. Tuttavia Alvax cerca di superare questa distinzione, perché? Perché lui dice, se io quando ero piccolo andavo dai miei nonni e vedevo questo candelabro che mi faceva paura, per esempio, adesso me lo sto inventando, però lui faceva fatto lui non aveva paura dei candelabri, invece lui non aveva paura no, di niente, non aveva no, paura scherzo. Di niente l'uomo che non temeva la memoria, esatto. Allora no, dunque lui in pratica dice questo: io attraverso quello che vedevo dei miei nonni, dei miei genitori, d'accordo che io non posso aver vissuto sulla mia pelle quelli che erano ad esempio gli eventi politici del tempo dei miei nonni, dei miei genitori, però che cosa vedevo? Vedevo gli effetti che questi eventi avevano su di loro. Quindi la nonna conservatrice o per esempio, la mamma sessantottina. Per esempio, esatto, okay. Assolutamente, sono... dei segni attraverso i quali la memoria autobiografica si riempie di elementi che poi si, diciamo, si arricchiscono insieme a quelli della memoria così, cioè, che vengono, a cui viene fatto riferimento come memoria storica, ecco, nel senso di date, nomi, così, che a un certo punto assumono un senso. Caspita, io vedo mio nonno che ragiona in un certo modo e so perché in quegli anni lui ha rivestito questo certo ruolo nella società, nei gruppi di cui ha fatto parte, e quindi io vedo il riflesso di quegli eventi che tuttavia non ho potuto vivere in prima persona. Quindi Alvax parla di memoria vissuta, ok? Un qualcosa okay. All'interno del quale i ricordi possono essere andati a ripescare, perché sono i ricordi non solo miei personali, ma del mio gruppo. Ecco perché lui non fa una distinzione ecco. Così e qua netta torniamo, tra infatti. Singolare e collettivo, tra individuale e collettivo, voglio dire. Ed è qui che casca l'asino, che la memoria storica si rivela per quello che è, per lui, fuffa, ossia una finzione, un qualcosa che di cui si occupano gli storici. Lui crea proprio delle differenze. Quali sono le differenze tra memoria e storia? Appunto, la memoria si concentra sui periodi di tempo in cui un gruppo resta più o meno coeso, uguale a se stesso, non ci sono grossi cambiamenti, perché proprio in questi periodi si formano le immagini attraverso le quali il gruppo si riconosce in se stesso. Invece la storia cosa fa? Prende le divisioni temporali, anche mm-hmm. in maniera abbastanza, diciamo, tagliando con l'accetta, in maniera arbitraria, errata, ignorando l'importanza di quelli che poi sono i movimenti che sono il vero motore della storia, diciamo, e opera queste divisioni artificiose, creando delle distinzioni tra periodi, tra gruppi, che spesso sono artificiali, appunto non rispecchiano questa vera diversità. Poi la storia ha la pretesa di essere una diciamo uno sguardo dall'esterno, uno sguardo che ricomprende tutti i gruppi, tutte le società di tutti, tutto il tempo possibile e immaginario, insomma una storia universale, unica. Invece le memorie no, sono tante, sono spessissimo in contrasto tra di loro, sono in continuo mutamento, vengono continuamente messe in discussione, riaggiornate, e quindi questo è un altro elemento di distinzione fondamentale per Alvax. Tra l'altro non c'entra niente, ma ricordo, non c'entra niente, ma volevo dire quanto era finita la partita, no scherzo. No, non c'entra niente, ma in realtà io ho una memoria, parola oggi super abusata, di non mi ricordo chi, e probabilmente dirò anche il nome sbagliato, ma era tipo il mito dell'eterno ritorno, una cosa del genere, secondo cui fondamentalmente si diceva che ci si creava, le comunità spesso si creano, e questo è effettivamente abbastanza, come dire, intuitivo se mi guardo un po' intorno, e cioè che, come dire, la memoria venisse rielaborata effettivamente man mano nel corso del tempo, e che ci fosse una tendenza migliorativa al passato più remoto, quindi uno stato di, cioè un momento in cui andava tutto bene, era una figata, questo anche quando le cose, e quindi ci si cercava una, come dire, un motivo per migliorare il passato, e quindi non lo so, il passato è anche tu con le scarpe rotte e un pallone in mezzo alla strada, e comunque è quel passato puro, bellissimo, in cui si stava bene, gli amici erano amici davvero, e quindi in realtà anche in questo caso, no, man mano che passa il tempo si rielabora quello che c'è prima, giusto? Può avere senso. Questa cosa è molto interessante, anche perché ci permetterebbe di tuffarci a capofitto in un punto del secondo capitolo della mia tesi, che ora non mi ricordo tanto bene. No, no, vabbè, però, ma non ci volevo ancora arrivare, però volendo effettivamente, dopo spero di arrivarci perché è molto figo. Tra l'altro, io, per interromperci un secondo, se tu sei d'accordo, volevo rappresentare, come dire, l'altra parte del dibattito, perché io volevo mettere volevo giocarmi il jolly di quello che piace ai giovani e ai meno giovani, e cioè Barbero, il quale peraltro è uno storico, quindi, come dire, rappresenta sotto alcuni punti di vista l'altro lato della medaglia di questo dissing continuo fra discipline, e anche discipline possiamo discuterne perché comunque le aree sono abbastanza grigie, e nello specifico ho tirato fuori un pezzettino di questo, di questa conferenza a cui era stato invitato, in cui parla di storia e memoria storica, e lo fa tra l'altro in una maniera, diciamo, citando un episodio abbastanza controverso, per cui secondo me lo mandiamo. Primo, la storia e la memoria sono due cose completamente diverse. La storia si basa sulla memoria solo nella misura in cui, per sapere cosa è successo, devi fartelo raccontare da chi c'era. Sia che sia ancora vivo, sia che abbia scritto qualche cosa, d'accordo? Ma di per sé storia e memoria sono due cose completamente diverse. La memoria è sempre soggettiva, è individuale, è come io o la mia famiglia o il mio paese hanno vissuto quegli avvenimenti. Non è mai condivisa. Lo so che è uno slogan che la nostra politica ripete da tempo, ma lo slogan della memoria condivisa è uno slogan completamente idiota. Il figlio di un fascista che è stato passato per le armi dai partigiani, difficilmente, statisticamente, in rari casi, riesce a prendere le distanze da questo e a dire però avevano ragione i partigiani. Mentre il figlio di un partigiano che è stato impiccato dai tedeschi, evidentemente, ha una memoria diversa. Sto parlando della Resistenza, che è uno dei momenti grossi in cui ci si spacca. Però io capisco anche la vecchia signora, il cui papà era un fascista, dirigente fascista, ma lei dice era tanto buono, tanto caro, era una bravissima persona, non è come dicono che erano i fascisti, assolutamente, e i partigiani un giorno sono venuti a prenderlo e non è più tornato. E io la capisco che la vecchia signora mi dica quei partigiani erano tutti degli schifosi, e va bene, d'accordo, quella è la memoria, appunto. Guai se però qualcuno la fa parlare su un palco dicendo questa è la storia di cosa è stata davvero la Resistenza. Grazie. Grazie. Prego. Quello che, eccoli, ecco, questo è quello che ne pensava Barbero, che tutto sommato in realtà in una maniera o nell'altra, pur essendo storico, ha dei punti in comune con quello che stavamo dicendo noi, correggimi se sbaglio. Certo. E quindi, insomma, niente, con la sua solita verve che lo ha reso celebre su tutti gli schermi e in tutte le versioni techno di canzoni in cui lui dice squartare tutti, e niente, direi che a questo punto passiamo, diciamo, un po' più in là, perché secondo me ci sta in linea con quello che stavamo dicendo, come dire, di andare a, perché noi abbiamo, a questo punto abbiamo parlato di, come dire, di memoria e quindi di tempo che scorre. Eh sì. In questo Una delle cose interessanti che racconta la tua tesi è tutto ciò che ha a che fare con, diciamo, come a partire dai primi, diciamo, millenni di vita dell'essere umano, in una qualche maniera, forse non i primissimi, ma a partire da un bel po' di tempo fa, le istituzioni religiose, la religione, non saprei come meglio definirla, ha plasmato in una qualche maniera il tempo e la memoria, possiamo dire, in una qualche maniera. E questo lo dico in virtù del fatto che prima mi sono dimenticata di dirlo, ma mentre leggevo questa tesi, a un certo punto ho letto questa cosa che mi era piaciuta molto, e cioè che diceva Pulsar Ipse: al variare del gruppo e del grado di partecipazione alla sua memoria, un individuo può risalire più o meno lontano nel passato per recuperare dei ricordi. Oltre i limiti dei tempi sociali non c'è nulla. Il tempo è reale nella misura in cui offre al pensiero un quadro in cui incasellare le proprie rimembranze. A questo punto la religione colma dei gap. Possiamo dirlo così? Sì, dai, più sì, o meno. Decisamente. Si può dire che la religione sicuramente prende spunto da degli eventi avvenuti nel passato delle civiltà umane, quindi ad esempio migrazioni, guerre, eventi che in una qualche misura vengono trasfigurati simbolicamente, per usare un'espressione che si rifà al terzo capitolo della tesi, che ora non starò ora a dire. Esatto. Meglio. Ok. E quindi quant'altro? Diciamo che la religione... Pausa di suspense. Esatto. Cioè, allora, io, scusami, che nel frattempo mi aggiungo qua così, perché in realtà... Poi io spero che dopo riusciremo anche a raccontare una storia in particolare in cui tutto questo discorso ha un riscontro notevole, ma a prescindere da questo, diciamo che io ero stata abbastanza, come dire, solleticata dal fatto che, come dire, in tutto il discorso che abbiamo fatto, e quindi in tutte le rappresentazioni della memoria, si riesce ad andare fino a un certo punto, ma oltre un certo punto in realtà mancano proprio gli elementi per ricostruire, se è vero che noi abbiamo in primis una trasposizione della nostra storia personale o della nostra comunità all'interno di una narrazione, no? Okay. E quindi questa cosa qui... ovviamente, come dire, se man mano si va indietro, come dire, diventa sempre più complessa. Certo. Ora, in realtà questa cosa ha diverse espressioni. A me viene in mente, anche se adesso vorrei che tu mi parlassi più di quello che stavi parlando, cioè di quello che stavi per introdurre prima che ti bloccassi io, è che anche... come dire, in questo, soprattutto in... ma non è vero che soprattutto in alcune società, diciamo, precedentemente e o successivamente in determinate forme e o in altre, la genealogia, quindi il tornare indietro nelle radici, può colmare un po' questa cosa, quindi provare a ristrutturare tutta la storia della propria comunità indietro, indietro, indietro, indietro, potenzialmente è un altro degli elementi. Sì, sì, assolutamente. Infatti una cosa da tenere presente è che la costruzione di genealogie, soprattutto quello che è il culto dei morti, ecco, è un po' da lì che è partita, ecco, esatto. È partita la fenomenologia, per così dire, della memoria collettiva. Perché? Perché si parla di commemorare appunto delle persone che sono state vive allo scopo di tenerne vivo il ricordo per i vivi, ecco. Quindi quella è stata una delle prime forme in cui nelle società umane si affrontava sicuramente il fenomeno della morte, e si costruiva, diciamo, un piano allargato di condivisione di conoscenze e di esperienze. Quello che ad esempio Asman, Jan Asman, un egittologo che riprese la teoria della memoria collettiva di Alvax trasponendola su un piano più culturale, diciamo, lui creò appunto questa categoria un tessuto connettivo all'interno del quale gli individui di una stessa cultura si ritrovano con delle stesse aspettative, delle stesse esperienze, insomma un piano comune all'interno del quale poter comunicare. Tra l'altro, stavo cercando nel frattempo fra i miei appunti, nel senso che è interessante quello che stava dicendo lui, che stava dicendo Pulsar, giustamente, riguardo al fatto che, come dire, il ricordo dei morti, degli antenati, eccetera, eccetera, ha due direzioni temporali. Una è verso l'indietro e l'altra è verso il futuro, e così ha, quindi, come dire, da una parte ricorda quello che è stata la comunità e dall'altra proietta sul futuro che cosa poi sarà fondamentalmente la comunità in base a quello che è stato. Continuo a dire cose random perché mi ricordo da un recente esame che in alcune popolazioni ci sono addirittura, vengono attribuiti ai nuovi nati il destino degli avi, degli antenati. Quindi nel nuovo nato si presuppone si ripresenti l'avo, quindi in quel caso c'è proprio una continuità, come dire, fra questi due piani diretta, così. Certo. E quello che io volevo anche, tra l'altro un'altra idiozia da mettere però sulle genealogie, ma non lo farò perché vorrei andare un po' avanti, però sono molto stupida, dopo ve la metterò lo stesso. E un'altra cosa che volevo dire è che, se noi fino adesso abbiamo detto che memorie si rielaborano nel corso del tempo, quello che fa la religione, anche qua correggimi se dico delle vaccate, vai, è fondamentalmente bloccarne una parte. Cioè, o quantomeno presentare come memoria fissata. Ok. Invece, posto che poi ovviamente viene rinegoziata anche quella nel corso del tempo, ma fornire una sorta, nel senso che evidentemente le istituzioni ecclesiastiche comunque nel corso del tempo la rimodificano, ma che in quel momento, non so se per la sacralità, probabilmente sì, ma sembra immutata, immutabile, lì scolpita nella roccia. Sì, c'è da dire questa cosa. Se parliamo del cristianesimo in particolare, il discorso si fa interessante. Infatti quello religioso, diciamo che è uno dei quadri sociali più interessanti da affrontare. Perché? Perché si parla di qualcosa che ha la pretesa di rimanere immutabile nell'eternità, di rappresentare per l'eternità se stesso e tutto il resto. Mi spiego meglio. Nella memoria religiosa ci sono i templi, gli edifici sacri, la distinzione tra sacro e profano all'interno della quale i membri della comunità religiosa, i credenti, si ritrovano. Si tratta di una memoria che, appunto, dicevamo, ha la pretesa di rimanere sempre uguale a se stessa. Tuttavia è una pretesa, è una tensione, non è, no, come dicevamo, il destino della memoria è sempre, sempre, sempre quello di plasmarsi, di modificarsi, di essere in continuo divenire. Prendiamo ad esempio i primi tempi di vita del cristianesimo, quando ancora c'erano, diciamo, gli apostoli di Gesù Cristo in vita, quando si andarono a stabilire a Roma. Quando i romani li lanciavano contro i leoni, esatto, diciamo, in quel periodo lì. Sì, in quel periodo lì ancora c'erano i ricordi, diciamo, erano freschi, per usare ancora dei termini poco accademici, ecco. Erano ricordi vivi, venivano tramandati a voce. Le comunità si formavano quasi per un passaparola, no? Ecco, Tuttavia, con il passare del tempo, anzi, prima di arrivare a questo punto, comunque i membri di questa società erano tutti sullo stesso livello, erano tutti quanti credenti, le prime messe, non c'era distinzione tra chierici e credenti che prendevano parte a una messa, erano ruoli interscambiabili, per così dire, non c'era una struttura sociale complessa all'interno di questi gruppi. Cioè non c'era il clero praticamente. Il clero c'era, ma il clero era la gente, cioè non erano due categorie. Non era stratificato. Esattamente. Ok. Non c'era una gerarchizzazione. La gerarchizzazione è arrivata dopo, come? Quando, con il passare del tempo, con diciamo l'invecchiare delle scritture, quando certi significati scritti sui testi sacri rischiavano l'oblio, rischiavano di andare persi, a quel punto si è imposta la necessità di un lavoro di recupero del senso. È qua che si inserisce tutta la tradizione dell'esegesi. Esegesi, scusate, io sbaglio sempre gli accenti. Sì, tra l'altro io ero convinta che si dicesse esegesi, ma sono contenta di impararlo qui oggi. Impariamo sempre un sacco di cose. Ah, non essere sicura di quello che dico. A ginnastica per sale d'attesa. Ok. E di conseguenza questa tradizione, questo bisogno di ricostruire il senso, di salvaguardare il senso, ha fatto sì che il gruppo dei chierici, diciamo, si chiudesse in se stesso, che le persone che animavano, diciamo, i rituali legati alla religione si formassero quasi una società a parte, distaccata dal resto dei credenti, non di netto, ma sempre più distaccata. Di volta in volta questi chierici, nel corso del tempo, dovettero affrontare, tra l'altro, non solo la perdita dei significati che ormai non erano più compresi all'interno dei testi sacri, ma dovevano anche affrontare l'arrivo magari di nuove correnti, nuovi quadri sociali che si strutturavano nella società e che si, diciamo, interfacciavano con il loro. Cosa significa? Che nel corso del tempo questi chierici dovettero costruire, erigere un vero e proprio sistema di dogmi. Quelli che prima erano dei ricordi, degli elementi della memoria collettiva che erano condivisi dai membri, a un certo punto alcuni tra di loro divennero conflittuali e quindi si delineò la necessità di costruire un castello dogmatico, un castello di ricordi, diciamo, pietrificati, per usare dei termini al di fuori dell'accademia. Non fatelo nella vostra università, vi prego. Non fatelo a casa, ragazzi, che è la vostra università, se siete... Madonna, raga, mamma mia! Cioè, praticamente non fatelo a casa, che è anche l'università, quindi non fatelo all'università, no, non fatelo mai. Non fatelo mai, così andate sicuri, state tranquilli. Sicuramente non fatelo al vostro corso, davanti al vostro professore. Soprattutto se il vostro corso è di fisica quantistica, raga, non fatelo assolutamente, assolutamente. No, infatti era abbastanza... adesso premetto che io sono molto poco... so molto poco rispetto alla prima fase del... come dire, della... Chiesa cattolica e o del cristianesimo nel caso specifico, però effettivamente in realtà, già che uno non ne sappia tantissimo, probabilmente è altrettanto possiamo osservare che in ciò che impariamo, visto che stiamo parlando sempre di pezzi condivisi o meno, rinegoziati e risignificati, tendenzialmente tutto ciò che io so rispetto al cristianesimo dipende, diciamo, dalla sua già rielaborazione, quindi già più esatto. Quando già nella fase, madonna raga, mi si sta arrotolando la lingua, va bene, venitemi a salvare, quindi non più quando era più orizzontale, diciamo, ma fondamentalmente già in pieno verticismo, già in piena gerarchia. Non sarà un caso questa cosa, evidentemente. Esatto. Adesso non c'è chissà. Vabbè, certo, quale tu ne sai di più, sicuramente io ne so di meno, però diciamo nel poco che ne so io. Sì, sì, sì. No, nel senso che ci sono delle persone che sanno anche la prima parte, non è che adesso è insapibile. Però sicuramente il fatto che a un certo punto, e in questo entrano anche le tutte le eresie. Allora, il discorso delle eresie, così come dei misticismi, è un discorso che stavo appunto per attaccare. Se vuoi mi ricollego in... Vai, non so se... Cosa facciamo? Mettiamo un'altra canzoncella o... Posso finire un attimo? No, infatti, finiamo qua. Perché si lega abbastanza così, almeno sì, chiudiamo sì, questo sì, discorso vai, della vai. Religione, ecco. Come dicevo, la società, il gruppo dei chierici della religione cristiana si dovette confrontare con le nuove correnti di pensiero sia all'interno del gruppo religioso più vasto, sia con le altre correnti del sapere, come ad esempio l'illuminismo, per dire, anche tutti quelli che vennero nei secoli successivi. Quindi nel corso di questo periodo ci fu una continua ritrattazione, rinegoziazione dei significati all'interno della memoria collettiva cristiana. Ad esempio, certe cose, se in un periodo non potevano venire accettate dalla Chiesa, basti pensare al 500, a Galileo Galilei, ai processi dell'Inquisizione. Esatto, in seguito la Chiesa dovette adattare la sua memoria a tutti i nuovi significati che si schiudevano all'interno della più vasta società in cui questo gruppo si inseriva. Un'altra cosa che mi... Anche perché ricordiamolo, comunque i testi sacri del cristianesimo sono la Bibbia, ma in realtà tutte le encicliche, tutti i congressi, eccetera, eccetera, sono comunque dei testi sacri tendenzialmente, quindi la lettura official page della Chiesa, ed effettivamente da un'enciclica a un'altra, potenzialmente in alcuni periodi storici soprattutto, c'è un cambio completo di rotta. Certo. In quel momento lì, quella vera è quella lì. Si tratta sempre di un riadattamento della memoria, dei ricordi, in base ai bisogni del presente, come si può vedere, rifacendosi alla teoria della memoria collettiva di Alvax. Un'altra cosa da tenere presente, le correnti mistiche. Perché la Chiesa non decise mai di annientarle, di distruggerle, anche quando avrebbe potuto, quando ne avrebbe avuta la legittimità, ma spesso decise invece di inglobarle. Perché? Perché questi gruppi minori, diciamo, prendevano le mosse a partire da dei bisogni sentiti all'interno dello stesso gruppo religioso. Erano come delle correnti all'interno dello stesso gruppo che chiedevano, che volevano la loro, diciamo, la loro parte, all'interno della memoria collettiva. Quindi la Chiesa spesso preferì, sussumere questi gruppi in modo da renderli parte, chiaramente ogni volta attraverso un'operazione di adattamento delle strutture di questi gruppi, all'interno del proprio gruppo, di quello che riconosceva come il proprio gruppo ufficiale, il proprio corpus di credenze e quant'altro, ecco. E quindi diciamo che, riprendendo quello che dicevamo all'inizio, la pretesa di fissare una memoria è una pretesa piuttosto, come dire, farlocca, nel senso che nonostante il modello sia quello, in realtà il processo di ridefinizione è costante. Non è così semplice, perché anche la pretesa di fissare il ricordo collettivo, quindi creare un dogma, creare un canone, è un discorso ben più complesso e agisce sul modo stesso in cui poi una società ricorda. Infatti, se parliamo ad esempio di altre società più antiche, come ad esempio la civiltà ebraica, l'antico regno di Israele, quando questo venne distrutto, non è che i ricordi giuridici e religiosi di quella società finirono nel nulla o furono adattati in base alla nuova condizione di subordinazione in cui i membri di questo vasto gruppo nazionale si ritrovavano una volta deportati all'estero, a Babilonia o dove altro finirono. Ma questi significati furono diciamo, raffreddati all'interno di questi testi sacri, divennero dei canoni, divennero degli strumenti per mantenere la loro identità anche in una fase di cambiamenti. Infatti questo è un discorso molto interessante che, se volete, possiamo intraprendere meglio, oppure possiamo anche passare direttamente alla traccia. Ma io direi forse a questo punto di passare ad una traccia e poi di tornare su questa cosa, perché secondo me è molto interessante. E a questo punto, tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, ma nel sottofondo c'è niente po' di meno che, per creare l'atmosphere, il album che andava per la maggiore in, alla Pulsar House durante la stesura di questo testo. Quindi è tutto, e quanto questo rientra nella memoria. Per cioè, onestà, devo pazzesco. Dire che non è quest'album in particolare, ma sicuramente vabbè, questo... gli artisti. Parliamo di Stan Getz e di Bill Evans, sassofonista e pianista, e soprattutto Bill Evans, un suono molto particolare, innovatore del suo tempo del pianoforte. Andate ad ascoltarlo, cercatevelo tutti. Y si salimos del virtual mundo. Y si salimos del virtual mundo. Y si salimos del virtual mundo. Y si salimos. Busco tus ojos entre el tumulto, entre cabeza agachada adulto, entre teclado, pantalla, notificación. Busco un momento de atención para saludarte, saber de tu día, para sentir la real compañía, no esa fría de aparato de telefonía. Busco conecte tu mirada con la mía. Busco la luz de tu ojo en el oscuro cemento. Levanta la cara, siente el viento. Mira los colores, los dolores del resto. Y todas sabemos que esto no se arregla con un like. No, tampoco mejoramos nuestras vidas vistiendo de Nike. Lo cambió su más profundo. Espero estar frente a tu ojo, aunque sea unos segundos. Y si salimos del virtual mundo. Y si salimos del virtual mundo. Y si salimos del virtual mundo. Y si salimos. Vamos. Lejos de lo iracundo, de ese no rotundo. Deja ese aparato, hermano, conecta conmigo un rato. Gana la batalla contra la pantalla. Busco tu mirada en alto, cuestionando el acto. Vamos a hacer un asalto. Si total, no está mirando nadie, salgamos a la calle. Dejemos la cueva, miremos cómo la mente se eleva. Se revela, vuela, aunque la vida duela. Nada frustro, me la busco. Hasta romper la suela de la galaxia oriundo. Amantes por segundo, desatando nudos desnudos. Frente al silencio profundo. Facto, sin aplicación, sin explicación, a pura pasión y cora, sin hora ni computadora, el atardecer decora, decora. Un tic tac menos, un big bang más. Vive al menos, aunque sea fugaz. Un tic tac menos, un big bang más. Vive al menos, aunque sea fugaz. Possiamo propsare sta voce che abbiamo appena sentito, Pusher? Sì, possiamo propsarla? Avete appena ascoltato la Dejabu direttamente da Valparaíso, Cile, big up da Milano Sud, Milano Sur, Costa Sur, anche se qui non c'è il mare, ma probabilmente tra qualche decennio ci sarà. Infatti, ma c'è solo da aspettare e avremo la nostra spiaggia caraibica anche qui a Milano South. è già un programma, raga, cioè abbiamo già le magliette stampate, non vi preoccupate. Allora, in realtà noi vogliamo cambiare totalmente strategia, perché ci sono un sacco di cose da dire. E, ai noi, visto le svariati gruppi sociali a cui fa riferimento Pulsar, il quale è, come dire, contemporaneamente parte della società dell'hip hop, della società dei Dottor Pulsar e della società di un sacco di società. Anche noto come Pulsar and the Pulsar 5. Anche noto come membro di Pulsar and the Pulsar 5. Intanto salutiamo uno dei Pulsar 5. Ciao Cesare, che sta spuntando in questo momento in studio per l'appunto per reclamare il suo gruppo sociale di Pulsar. E quindi noi in realtà proseguiremo in un secondo momento la discussione e la chiacchierata su questi argomenti, anche perché effettivamente ce n'è assai. Esatto, il discorso sulla memoria collettiva si allarga, si arriverà alla memoria culturale, parleremo di come ricordavano le società antiche per addentrarci nei più reconditi significati dell'identità collettiva, individuale e quant'altro. Quindi, signori e signore, vi consiglio di restare tunnati e aspettare la prossima puntata. Esattamente. E quindi a questo punto io ci tengo a mettere, scusatemi, perché prima parlavamo di genealogia e io penso di avere un contributo di elevato spessore. Posso? Allora, guarda, aspetta che te lo dico, non posso, perché questa cosa, io non posso guardare lo schermo, ma devo guardare lo schermo, e soprattutto, essendo miope, non vedo una mazza, capito Pusa? Questi miei occhiali. Allora, quello più forte. Esattamente, proprio quello lì, perché abbiamo parlato di come le genealogie strutturano un gruppo, e secondo me, a parlare di genealogia non possiamo che chiamare degli esperti. E quindi, regista, please. Senti, piuttosto, papà, per quale motivo siamo venuti a fare questa gita fuori porta così noiosa, ma così noiosa? Biff, non te lo dissi. Non me lo dicesti. Allora, devi sapere che giorni or sono... Quanti? Or sono tre. Vabbè. Se tu non sillabi non viene or sono, devi sillabare. Or sono. Biff! Circa 5 giorni or sono, mi è apparso in sogno. Chi? Il signore del deserto. Ma va? E niente po' di meno, e che? E mi disse? E ve lo sto dicendo. Allora, tu grandissimo... cornuto! No. Eletto... Scala la montagna sacra e vieni al mio cospetto che ti dirò la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Scusa babbino, ti disse che dovevo venire anch'io in questa gita? No. E per quale motivo ho mai trascinato seco con te? E metti che c'è da fare un sacrificio, che faccio? Mi faccio trovare a mani vuote? È maleducazione. Anche questo è giusto. Senti, adesso che succede? Arriva da sé questo... Adesso, siccome lui abita proprio qui... Sì? E lo chiamiamo... Signore! Che hai visto? Che hai visto? Ma voi mi avete paura. Ma hai visto niente tu? No. E mi fai cagare sotto senza dire il motivo. Ma scusa. Perché non ce ne andiamo prima che succeda l'ira di Dio, eh? Allora, all'unisono con me. E lui che mi ha detto di venire qua? Va bene. Uno, due, tre. Signore! Sai chiaro che quello ci sbudella se fai così? Un po' di educazione! E non ti ho insegnato niente! Signore! Più forte! Signore! Più forte! Signore! Interrompere il sonno di Pedor, il grande Pedor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del Khnir, uno degli ultimi sette saggi, Vrurganer, Rastaparing, Zuzar, Paranfusus e Tarin, Pedor, colui che era, colui che è stato e colui che sempre sarà, ciuccia chi e ciuccia là, Pedor, colui il quale ha inseguito e sconfitto i demoni Shem, che ora vagano per il mondo domandandosi: Manim, chi Shem? Avvicinati tu, o uomo dalla forma gnomica, e ricordati che sei al cospetto di Pedor, colui il quale è sceso nelle sacre acque del lago Fnur, tra le ninfe Pfnigerals, e lì ha assaggiato il mitico cibo degli dèi, la piadeina. Avvicinati tu, o uomo dalla terra dei fichi d'India, e ricordati che sei al cospetto di Pedor, colui il quale ha amato le mille dee, tra cui la dea Berta, la dea dalla gamba aperta. Pedor, il grande Pedor, che ha visto i mille draghi alati, Casisurar, Parin e Farem. Avvicinatevi, o uomini. Tu, o mio eletto, hai portato le tavole? Sì, le ho portate. Bene. Veramente le ho portate io. Taci, o scricciolo d'uomo. Scusi, signor Khmer. Pedor, figlio di Khmer, della tribù di Star, colui il quale ha visto tra le nebbie di Gvnzir i mille alghe pelose di Khususat, Parambasin, Turum e Paragels. Avvicinatevi. Che dire, che dire. Cioè, non male, vabbè, questo mi sembrava giusto chiudere così. Aspetta che sto parlando esattamente dove non dovrei parlare. E quindi niente, nel frattempo abbiamo salutato con vessilli di festa, esatto, il nostro buon dottor Pulsar, il quale è andato a fare il dottore in un'altra scienza, sì, in un altro campo della scienza. È stato preso in prestito per oggi, ma esatto, da quello che ho capito, io mi presento, Lorenzo, regista. La nostra regia è muta, esatto, in realtà sta parlando con la Liz. Esatto, esatto. E da quello che ho capito ci sarà un secondo episodio di questa puntata. Un secondo episodio. Perché era troppo massiccia per rimanere costretta in una sola. E infatti, e quindi niente, quindi ci sarà un episodio 2 e sarà interessante come di più, di meno, medio di quella di oggi. Mi raccomando, continuate a seguire Radio ZM su Archive, su Facebook, su Telegram, scriveteci perché questo è il programma più interattivo della radio. Dovete scriverci domande, suggestioni, non insulti. Insulti c'è zona rossa. Insulti c'è zona rossa. C'è zona rossa. Domani. A zona rossa, se volete, li potete scrivere anche durante ginnastica per sale d'attesa, perché è giusto, è un discorso di solidarietà, secondo me, bisogna portarlo avanti. E niente, nel frattempo non mi sto girando perché ho il microfono spostato dall'altra parte, quindi lo sto facendo girata verso il muro, sono in castigo praticamente. Esatto, esatto. Vi ricordiamo che la chat è su Telegram, @radiozam_chat. Vi ricordiamo anche che domani appunto c'è quel programma bruttissimo che è Zona Rossa, di persone bruttissime, di orribili, orribili. Mancherà Guglielmo, quindi sarà un po' meno, quindi peggio sarà del un solito, un po' meno brutto, un po' meno brutto, esatto. Ci sarà Cigo in presenza, esatto. Allora, e poi allora, okay, a un certo punto entrerà di soppiatto DJ Franco e si infilerà col suo DJ set dentro Zona molto Rossa per confluire poi nella sua. Ma ragazzi, bellissimo. Quindi niente, effettivamente non avevamo, perché vedi, oggi la nostra regia muta era muta davvero, e quindi lui di solito fa tutta questa cosa, la carrà del momento. Esatto, trovateci su tutti i nostri canali. Esatto. E niente, a questo punto lo facciamo alla fine, quando vediamo se ve lo siete meritati. A questo punto, se cercate delle info, le trovate sulla pagina di Radio ZM sul Face, e credo forse ce ne sia anche una su Instagram, ma io sì, che dovrebbe gestire Cigo, ma lasciamo perdere. Cigo è troppo impegnata a prepararsi per la puntata di domani. Esatto. Di attesa, sta studiando da mesi e quindi probabilmente non ha aggiornato niente, però seguiteci, insomma, e se cercate i podcast li troverete su archive.org alla pagina di Radio ZM anche in questo caso. Esattamente, vi lasciamo con Stanghetz e Billy Evans che vanno avanti per ancora 7-8 tracce che vi piaceranno sicuramente e poi riprende l'auto DJ e noi ci sentiamo domani sera. Yeah, ciao raga.